Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovati Maria Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, continua il nostro viaggio, possiamo ormai dire, con la cronaca e il racconto delle ultime poche gare rimaste in calendario. Nelle scorse settimane abbiamo infatti parlato di Coppa del Mondo di Triathlon con Verena Steinhauser, di Campionato Italiano di Atletica Leggera tra Padova e Modena con Giovanna Eipis e Antonella Palmisano, del Mondiale di Mezza Maratona in Polonia con Elisa Stefani. Oggi chiudiamo forse questo nostro excursus, tra l'altro è tutto al femminile, con la fresca vincitrice del titolo italiano di triathlon olimpico, Luisa Ionia Pratt, che è al telefono con noi. Ciao Luisa. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Direi bene. Sì, sì, sì. Tutto bene. Un po' di stanchezza, ma tutto nella norma. Allora, andiamo subito al dunque. Che gara è stata quella di San Benedetto del Tronto? È stata una gara dura che però per me ha significato tantissimo. Comunque è stata una stagione difficile per tutti e già poter gareggiare ancora adesso è una cosa da apprezzare, diciamo, e poi diciamo portare a casa il risultato ai campionati italiani è stata la ciliegina sulla torta. Quindi per quanto sia stata difficile questa stagione, Posso ritenermi soddisfatta, ecco. Ma te l'aspettavi? Ma diciamo che lo volevo, cioè poi ognuno parte per vincere, o può capitare di tutto, una gara lunga, però diciamo che sapevo che se volevo giocarmi le mie carte potevo farlo in bicicletta e quindi ho abbassato la testa, ho spinto finché potevo e diciamo è arrivata la vittoria. È stato bello, ecco. Anche tutto è andato tra virgolette come mi ero immaginata. Bellissimo. Ricordiamo, il triathlon olimpico, quindi 1500 metri a nuoto, 40 km in bici e 10 di corsa. Esatto. Sì, sì. E ho visto che nella frazione di bici sei andata fortissimo, è lì che hai fatto la differenza. Sì. Io ho usato una bici da crono, perché ecco, la modalità era no draft, quindi era possibile utilizzare la bici da crono. E lo sto usando da un mese, perché comunque noi facciamo gare con scia, dove solitamente non utilizziamo questo tipo di bici. Però insomma il momento, il fatto, questa modalità mi ha fatto trovare modo di usare una crono. E quindi la sto usando da un mese e non è facile, nel senso che non tutti riescono ad adattarsi perfettamente comunque a un'altra bici, un'altra posizione in fretta. Quindi io ho provato e mi sono trovata subito bene, quindi l'ho utilizzata anche agli italiani di sprint che sono stati a fine settembre. Sì. E quindi mi diverto, cioè mi sono proprio divertita, perché anche in allenamento vedevo che riuscivo a spingere bene, avevo una buona condizione e quindi in gara ho detto qui o mai più, quindi mi sono messa giù, ho spinto e sono riuscita ad accumulare un buon vantaggio. Per chi non lo sapesse, la bici da crono, tu stai giù, hai delle specie di prolunghe, no? Dove c'è il manubrio. Sì, esatto, è un assetto molto diverso da una bici da strada, molto più ti permette di avere una posizione molto più aerodinamica, perfetta diciamo per le gare a cronometro. Molte ragazze, anche ma io stessa in realtà, non saremmo riusciti a trovare una bicicletta da crono, quindi ci siamo attrezzate mettendo anche delle prolunghe più lunghe sulla bici normale, e bene o male riesci a cavartela anche così. Poi ovviamente la bicicletta da crono ha proprio tutta un'altra geometria, un'altra struttura che ti permette di essere probabilmente un po' più performante ancora, e quindi direi che è stata la scelta azzeccata. E qual è stata la media, Luisa? 39,9. Vabbè. Una macchina. Peccato, per un pelo per sono poco, esatto. Per poco non sono riuscita ad andare sopra i 40, vabbè. Però guarda, è andata benissimo. Io stessa non credevo di riuscire a tenere questa velocità per tutta la gara, quindi mi sono stupita anch'io di me stessa. Citavi prima il campionato di triathlon sprint a Legnano il 26 settembre, lì sei arrivata seconda. Sì, esatto, seconda. La prima volta che provavo questa nuova modalità con partenza cronometro, senza riferimenti, e anche lì devo dire è andata bene, per cui non mi posso lamentare davvero. E invece che vista c'è dal gradino più alto del podio? Ah, bello. Beh. Soprattutto ti dirò, la parte più emozionante è stata sentire l'inno italiano sul gradino più alto, perché agli scorsi campionati italiani, appunto sprint di quest'anno sono andata seconda, l'anno scorso di nuovo seconda quelli di sprint e terza in quelli di olimpico, quindi quest'anno riuscire a raggiungere il gradino più alto, è stata un'emozione bellissima. È proprio caso di dire un gradino alla volta, insomma. Sì, sì, esatto, piccoli step, siamo riusciti a salire. Perfetto, così adesso ti fermi e basta, sul gradino più alto. Infatti adesso bisogna trovare qualche stimolo magari in campo internazionale, vediamo. Ah, un titolo italiano in un anno come questo ha un valore diverso? Sì, cioè per me sì, perché comunque è stato un anno difficile, senza avere gare non è semplice continuare a lavorare tutti i giorni. Poi soprattutto i 3 mesi che siamo stati in lockdown, comunque a trovare le forze tutti i giorni di pedalare sui rulli, correre attorno a casa o addirittura nel giardino di casa, nuotare, avevo comprato come tanti una piscinetta da mettere in giardino, nuotare da ferma. Con l'elastico, no? Eravate legati. Sì, sì, esatto, attaccata a un albero. Ci sei ingegnato un po'. Sì, assolutamente. Però ti dico, non è facile trovare sempre la motivazione, anche perché è stato un calendario gare che veniva modificato di giorno in giorno. Quindi si preparava una gara e una settimana prima veniva o annullata o spostata, non sapevi neanche più cosa sarebbe successo il giorno dopo. Quindi è stata dura per tutti, e riuscire a sbocciare, tra virgolette, in un anno così ha un significato grande, sì. Ma tu, Luisa, qual è la tua, specialità? I 10 chilometri, cioè la bici o il nuoto? Cosa preferisci? Allora io preferisco la bici, perché comunque è un mezzo con cui mi trovo a mio agio, riesco a guidarla bene, mi viene anche proprio voglia di farci fatica sopra in allenamento. E ho lavorato tanto però anche nel nuoto, perché fino a poco tempo fa era un po' anche un mio punto debole. E quindi anche lì mi sono messa sotto, e la corsa anche ancora sicuramente è la parte dove in questo momento c'è forse da lavorare un po' di più per solidificarla, però sicuramente la mia parte preferita è la bici, personalmente, proprio come gusto, come fatica, perché poi mi piace la velocità, quindi... E non a caso la differenza l'hai fatta lì, insomma. Sì, esatto. Questo titolo italiano regala qualche certezza in più, quantomeno sui tuoi mezzi? Sì, esatto, cioè ti dà un po' di autoconsapevolezza. Poi questo è un formato particolare di gara, molto oggettivo, nel senso che fa vedere il reale, secondo me, valore di un atleta, perché sei costretto a gareggiare da solo contro te stesso, e quindi sicuramente mi dà una consapevolezza di avere i mezzi, i numeri per poter stare davanti, e anche in una gara normale dove entrano in gioco tantissime altre dinamiche che poi sono quelle che fanno il triathlon vero, ecco. Ma la stagione ora si chiude qui invece? Ma allora no, se ci continuano a dare la possibilità di gareggiare, abbiamo tra 2 settimane la finale e anche unica gara di Grand Prix italiano a Mondello, e poi sì, penso sarà l'ultima gara, ecco. Sempre olimpico? No, questo qui fu sprint, quindi la metà. No, meno male, perché magari uno è a carico a molla così e non ci sono più gare. Almeno c'è una... esatto. Ancora 2 settimane, poi gareggiamo, però ti dirò, una pausa adesso ci vuole. Ma qual è la situazione invece ora tra piscine chiuse e impianti, insomma, ridotti un po' all'osso per l'utilizzo? Noi per adesso abbiamo la fortuna ancora che il nostro impianto, la DDS di Milano, ci dà lo spazio acqua. Per noi agonisti, penso anche per l'agonismo del nuoto, per i master, insomma, è riuscito a tenere un po' di giro, però non si sa quanto riuscirà a rimanere aperto, anche perché comunque tenere aperto un impianto per poche persone ovviamente ha i suoi costi. Ci avevamo provato anche al primo lockdown, però dopo 2 settimane hanno dovuto chiudere anche loro, infatti siamo rimasti a casa come tutti. Speriamo. Quindi Luisa, tu vivi a Milano? Sì, io vivo a Vigevano, comunque lì vicino, e mi alleno a Milano, insomma, con la squadra tutti i giorni. Beh, è una bella fortuna comunque correre con la squadra, tutti insieme, è un bello stimolo, poi avete un bellissimo gruppo, no? Quindi è un'altra cosa. D'accordo. Assolutamente. Diciamo che il mio salto di qualità l'ho fatto proprio venendo qui ad allenarmi con il gruppo, perché anche gli allenamenti più duri passano, ci si fa forza vicenda, e poi siamo un gruppo comunque che secondo me lavora bene insieme, perché ognuno ha i suoi punti forti, i suoi punti deboli, e riusciamo a rubare qualcosa l'uno dall'altro, e quindi riusciamo a crescere tutti insieme ed è bello. amici fuori dalle gare, ma in gara non si guarda in faccia nessuno. Sì, esatto. Ma come sempre, però, finita la gara, amici come prima, nel senso, siamo, vince il singolo, ma poi vince anche tutto il gruppo, sì, perché sì, comunque sì. Siamo una cosa sola alla fine, anche se è ovviamente uno sport individuale. Tutto. Beh, sì, sì, infatti. Tu sei del 95, no? Sei giovanissima. Quando hai iniziato a fare triathlon? Sì. Ancora quando avevo 9 anni, quindi lo faccio praticamente da una vita, da tutta la vita. Sì, lo faceva mio papà, che è stato sì, diciamo anche uno dei primi in Italia, nel senso che io ricordo al tempo che quando dicevo che facevo triathlon tutti mi guardavano con un'aria, col punto di domanda. Dire cosa? Che cos'è? Sì, esatto, che cos'è? Adesso invece siamo passati allo step dopo, che quando dico faccio triathlon mi chiedono se faccio gli Ironman. Ecco, beh, quello sempre, sì, sì, sì. No. Sì, no, esiste anche lo sprint olimpico e tutti ci rimangono male, fa vabbè. Sì, allora, è un po' come noi parliamo spesso di corsa, no? Quando ti dicono, ah, tu corri, ma hai fatto la maratona di New York? Perché certo. Solo il parametro è quello, praticamente. No, e dici, no, guarda, faccio i 5.000 e le corse 10.000, vabbè, allora. Non vale. Okay. Sì, sì, sì, cioè poi come se fosse più semplice. Cioè, tenere 2 ore a tutta è forse più duro che tenerne 4 per fare un mezzo Ironman comunque in controllo. Sono d'accordo. Quindi mi fa morire questa cosa. Comunque sì, diciamo, ho passato tutte le categorie giovanili e ci sono cresciuta assieme, ecco, a parte un po' di me. Quindi non sei, perché insomma gli amatori solitamente raccontiamo che arrivano un po' magari dal running e poi si spostano sul triathlon, magari dal nuoto, no? Sì, sì, esatto, ma tantissimi. Io diciamo faccio parte di quella generazione, se per così si può dire, che è proprio nata con il triathlon, perché poi tantissimi anche che lo fanno, ovviamente non era uno sport granché conosciuto fino a qualche anno fa in Italia, si sono tutti spostati magari appunto dalla corsa, dal nuoto, e magari chi faceva corsa è venuto a fare triathlon per una questione di infortuni, perché poi magari faceva cross training, ci metteva dentro nuoto, bici, e poi si è avvicinato al triathlon, perché comunque a mio parere è uno sport bellissimo, vario, che non stufa, e insomma è molto bello. Soprattutto anche fatta da bambina deve essere, ma eri da sola a farlo, perché non ci sono proprio squadre, tu arrivi da Pordenone, giusto? Dalla provincia di Pordenone. Sì, sì. Esatto. Eri in gruppo o eri sola? Ma allora, ti dico, noi facevamo in una squadra che si chiamava il Cussudine, che aveva una sezione giovanile, quindi io ho iniziato un po' ad allenarmi, ma una o due volte a settimana, cioè a quell'età era più un gioco, quindi sì. con altri bambini, magari un giorno nuotavamo, se c'era la nostra allenatrice, un giorno correvamo tutti insieme, ed è nata un po' così. E poi questa squadretta giovanile, diciamo, è cresciuta un po' insieme, si sono aggiunti poi altri ragazzi e quindi ho iniziato un po' a prendere piede. E poi da quando ho finito le scuole medie mi sono iniziata ad allenare con mio papà, cioè mio papà mi allenava, diciamo, e quindi lì si è stata un po' da sola ad allenarmi, e poi lì in realtà che capisci quanto serve un gruppo. Che poi, un po'... col papà, cioè, potete capire, quando si vinceva tutto bene, quando si perdeva, perché ovviamente tutti hanno passato i loro momenti, le loro gare andate male, è tutta una tragedia, mamma mia. La pressione addosso in partenza, mamma mia. E come hai fatto poi a trasferirti a Milano? Praticamente ho conosciuto Simone Diamantini, mio attuale allenatore, e in un periodo dove non andava molto bene lo sport. Avevo finito le superiori, avevo iniziato l'università, ma avevo cambiato categoria, non andava molto bene. E parlando con Simone mi ha fatto capire che secondo lui potevo ancora dare qualcosa a questo sport, che con la giusta guida tecnica avrei potuto togliermi ancora qualche soddisfazione. Allora ho provato a... gli ho dato fiducia e mi sono iniziato ad allenarmi con lui ancora a casa mia, perché volevo finire prima l'università. Poi una volta finita l'università ho deciso di provare a trasferirmi qua con il gruppo e vedere, darmi un anno di tempo per vedere dove potevo arrivare. Direi che insomma le soddisfazioni non sono mancate. Quindi... E il triathlon adesso è il tuo lavoro praticamente? Sì, sì, diciamo di sì. Le entrate non sono proprio come un lavoro, soprattutto in quest'anno. Soprattutto in quest'anno, sì, il fatto che sono mancate un po' le gare, magari, no? Esatto, esatto, anche perché comunque il triathlon se non sei in un gruppo sportivo purtroppo non paga molto da questo punto di vista, quindi quello che vinciamo lo vinciamo con le gare, non essendoci state gare siamo andati avanti un po' di risparmi sì. E in più anche gli sponsor, in realtà è un po' difficile che investano sul triathlon al giorno d'oggi, anche se diciamo è un po' difficile trovarli, e quindi andiamo avanti con quello che riusciamo a prendere. Nonostante l'attenzione sul triathlon sia aumentata, insomma, negli ultimi anni vediamo anche un sacco di amatori ormai che si approcciano, e ci sono tantissime gare tra l'altro. Però infatti ti dico, secondo me ha più piede chi fa appunto lunghe distanze, perché poi sono quelle che avvicinano gli amatori e il pubblico in generale, quindi anche per uno sponsor probabilmente è meglio investire su un'attività così piuttosto che sprint olimpici. E come ti ho detto, la gente diceva, vabbè, ma quella roba lì... Quindi ti toccherà farlo l'Ironman. mi toccherà... Per esigenze economiche, per diciamo. Guarda. Tra l'altro anche le gare, infatti, pagano anche di più. No, a parte, però... ti piacerebbe, Luisa, o proprio no, per finire? No, a me piacerebbe. Io ho fatto un mezzo Ironman, cioè un 70.3 l'anno scorso. La mia prima gara... in quelle distanze, perché il mio allenatore me l'aveva data, diciamo, come obiettivo per riuscire a mettere su più volume d'inverno. Mi fa, così almeno hai una gara obiettivo e lo fai più volentieri. E poi allora ho provato a farle, in realtà non mi è dispiaciuta. Ho pedalato su una bici, anche lì, perché con la bici da crono, però più grande della mia misura, quindi ero scomodissima, non vedevo l'ora di scendere dalla bici, anche poi 90 km sono tanti. Però poi sono sceso, ho corso bene, alla fine mi sono divertita, ho vinto. Sono riuscita a portare a casa anche lì la vittoria, quindi mi sono divertita. Allora anche quest'anno mi sarebbe piaciuto farne uno, solo che per motivi di forza maggiore non sono riuscita. Grazie mille allora, Luisa Ionia Pratt, a presto, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. In bocca al lupo. Grazie a Paolo Corleoni, regia. Noi anche per oggi ci fermiamo qui. Ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15, quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.